Sono Paolo Kessisoglu e benvenuti a Gironimo. Dai, questa non l'abbiamo mai fatta, a caldo. Che storie, wow, molte cose da dire. Leonardo ha sparato una bomba da cui mi devo ancora riprendere. Gliela facciamo riprendere davanti ai microfoni. Sì, credo che Remco non vincerà questo Giro d'Italia a questo punto, perché doveva chiuderlo oggi, dovevano volare i minuti, sono volati forse alcuni secondi. Sono, come si dice nel tempo, sono volati centesimi di secondo. E io penso che Leonardo si sbagli, ma capisco che il giorno per dirlo con fiducia e certezza non è oggi. No, certezze ovviamente alla nona tappa del Giro non ce ne sono, però certezza ce l'abbiamo, che Remco non può vincere il Giro con la tattica che ipotizzavamo più facile per lui, ovvero cioè guadagnare minuti a cronometro e difendersi. Non la situazione è cambiata poi. Certo, è cambiata tatticamente del tutto. E poi oggi mi ha sorpreso come chi abbia vinto in realtà è il perdente della giornata, e chi ha perso, cioè Geraint Thomas per un secondo, è quello che ha vinto. Thomas e Gegenhardt, fondamentalmente. Questo silenzio era presentato da Michele Pelacci. Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia, della pioggia e delle bevande analcoliche, introdotti dalle voci prima di Paolo Kessisoglu in apertura, poi delle tre persone che sono sedute a questo tavolo, benvenuti a una nuova puntata di Gironimo. Le tre persone sono Leonardo Piccione, Michele Pelacci e moi, che sono Filippo Cauz. Gironimo è il podcast di Al Vento, realizzato da Bidon in collaborazione con Shimano sul Giro d'Italia 2023. Dicevi, Leonardo? Gironimo, o anche Giromino, come viene chiamato in Giappone. In Giappone, sì. Gilomino. Gilomino. Lo dobbiamo chiedere a Yuki Arashiro. A Yuki Arashiro, che però aveva avuto delle difficoltà a pronunciare Gironimo, ma comunque... Lo sentiremo un giorno. Siamo nella sala riunione della mega azienda che ha ospitato l'arrivo di Tappa, e c'è davanti a me una lavagna di quelle grosse che si scrivono con il pennarello, e ci sono scritte appunti come Functional Strength, Progetto Health e addirittura Pure Universe. E io credo che quindi prima di noi c'è stata la riunione degli Avengers. Degli Avengers o della Ineos Grenadiers, potrebbe anche essere. O forse della Ineos Grenadiers. Parole che loro potrebbero utilizzare nel loro paddock. Anche se sulla porta d'ingresso c'è scritto direzione. Cioè, prima puntata che facciamo, se non sbaglio, nella stanza della direzione di corsa, speriamo che non essere convocati in direzione per aver fatto questa cosa. Quindi abbiamo parlato di Ineos Grenadiers, perché? Perché della tappa ne abbiamo già parlato quei 10 secondi in apertura, sì, siamo a posto, passiamo secondi, i saluti no. E andiamo verso il giorno di riposo? No, direi che possiamo dedicare qualche altro secondo alla tappa di oggi, perché i due della Ineos, come abbiamo detto nell'intervento a caldo, sono forse i vincitori di questa tappa pur non avendola vinta, c'è questo paradosso oggi, ma andiamo per ordine, leggiamo l'ordine d'arrivo. Vero, nel senso, il vincitore di questa tappa è Remco Evenepoel, che ha dato 9 centesimi di secondo a Geraint Thomas, secondo classificato. Terzo è arrivato Theo Gegenhardt con 1 secondo e 75. Oggi tocca dire i decimi di secondo e i centesimi. Sono volati centesimi di secondo anziché i minuti, come dicevamo. Quarto è arrivato Stefan Kung a 3 secondi, poi Bruno Armirail a 7. Primoz Roglic sesto a 16 secondi da Remco Evenepoel, e poi a seguire settimo Timen Arensman, ottavo Alexander Vlasov, nono João Almeida e decimo Damiano Caruso. E questa è la top 10 della tappa di oggi, che corrisponde a una nuova classifica generale, una nuova maglia rosa. Remco Evenepoel ha riconquistato la maglia rosa strappandola a Andreas Leknessund, e adesso ha 45 secondi di vantaggio su Geraint Thomas e 47 su Primoz Roglic. Ci fermiamo qui con la classifica generale, commentiamo innanzitutto la tappa, la vittoria di tappa di Remco Evenepoel, tappa in maglia, come si dice in questi casi, una cronometro che doveva vincere. Ha vinto non nella misura in cui tutti pensavamo avrebbe vinto, cioè con distacchi molto molto più ridotti rispetto al previsto. Sì, addirittura meno distacco della prima cronometro, no? Che era molto più corta. Molto meno. Molto meno, esatto. Questo è stato stupefacente. però è una cosa che alcuni pensavano ieri, non io, per questo sono sorpreso, ma tanti dicevano che questa crono, dopo 8 giorni di corsa, no? Per cui con tanta fatica, tanta pioggia nelle gambe, avrebbe potuto avere, presentare un livellamento maggiore della prima. E così è stato. Molti pochi secondi, molti dettagli. Basti pensare per esempio a quanto si sono tirati i freni nel centro di Cesena, su un asfalto che non era asfalto, erano ciottolati. Quanto si sono tirati? No, andrebbero andrebbe chiesto ai freni del disco, esatto. Dovrebbe ascoltare, mettere il disco dei freni sul piatto, metterci sopra la puntina e sentire se ci dice quanto è stato tirato. Però non ricordo chi, forse Army Rail, potrei sbagliare, qualcuno ha usato i freni normali, rim. È così, interessante anche questa scelta, no? Con la pioggia tornare indietro. Comunque, torniamo, Leonardo, agli uomini di classifica, perché si sono mosse tante cose, no? Cambiata la maglia rosa, sì, Ineos. Tutto nelle previsioni, nel senso, ce lo immaginavamo tutti che alla fine della prima settimana, anzi della nona tappa, domenica 14 maggio, Remco Evenepoel avrebbe indossato la maglia rosa. Quello che non ci immaginavamo, e forse nemmeno Remco, era che il suo vantaggio sul secondo in classifica generale sarebbe stato sotto il minuto, ed è molto sotto il minuto. Sono, ripeto, 45 secondi su Thomas, 47 su Roglic, e già che ci siamo, 50 su Gegenhardt. Tre quarti di minuto è poco, e questo cambia un po' anche la strategia futura di Remco, che probabilmente immaginava di doversi difendere nelle tappe di montagna che seguiranno nella seconda e terza settimana. Invece non ha al momento un vantaggio tale da potersi soltanto difendere e attendere le mosse degli altri, il che lo mette in una situazione tattica e mentale completamente diversa rispetto a quella che si aspettava lui. È sembrato però lui reagire bene a questa cosa, è sembrato rilassato. E la sua tappetta se l'è vinta. Ha vinto una tappa. Sono due, che non fa mai male, insomma. Cioè, dicevamo prima, è uno sconfitto a Remco? Boh, è uno sconfitto sì, perché avrebbe dovuto guadagnare molto di più. Nessuno mai avrebbe previsto un distacco così risicato ieri sera. Però la sua tappa se l'è vinta e adesso vediamo cosa succede. Sì, l'ho visto, ero sia all'arrivo che in conferenza stampa, e ho visto un po' due Remco diversi. Forse anche lui ha dovuto un attimo interiorizzare, no, il risultato. Perché a fresco gli hanno detto, forse, o ha visto lui stesso il distacco. A fresco o a caldo? Hai ragione. Perché faceva okay, fresco oggi. Ho fatto oggi, un bisticcio, comunque, sì, sì. Capito cosa intendo? Sì. Insomma, da prima... Mi è piaciuto molto. Fresco, con la doppia F, perché okay, sembrava un dipinto Remco Evenepoel. Sì, e sai chi gli ha detto le cose a fresco? I fratelli Pare-Pentre. No. Dai, a caldo cosa gli hanno detto? A caldo? Sennò poi mi tocca tagliare, per cui cerchiamo di stare. Aveva una faccia triste, era giù secondo me, era un po' deluso da se stesso. Invece, pensandoci meglio, in conferenza stampa era più solare, era più contento. Io gli ho chiesto, perché è andato veramente nel dettaglio, no? Praticamente chilometro per chilometro ha scandito ciò che ha fatto, ciò che ha visto, e i watt che spingeva, come girando verso sinistra, ha detto. Si riferiva ovviamente al fatto che a una certa la cronometro saliva da San Mauro Pascoli e voltava verso sinistra, verso Cesena, no? Quindi aveva in testa benissimo la planimetria anche della tappa. Sì, il vento ha arrivava... citato la chiave di violino sdraiata, se non sbaglio. Bravissimo, a un certo punto, bravissimo, in conferenza stampa. Il vento arrivava laterale, e questo gli ha condizionato quella parte di percorso in cui lui dice che è andato più piano di quello che si aspettasse. E io ho chiesto, Remco, hai descritto benissimo questo discorso, come hai fatto? E lui mi dice, sì, si è messo a ridere e dice, sì, è strano, non andavo molto bene a scuola, e forse in realtà sto solo dicendo bugie, però questa è la cosa che faccio perché amo quello che faccio, sono appassionato, studio, e faccio tutto questo perché ho passione. Per questo mi è piaciuto, insomma, Remco è uno scienziato in quello che fa. Io però non ho ben inteso il legame tra il suo non andare bene a scuola e raccontare la tappa nel dettaglio, nel senso, se uno... Perché se magari prendi sempre 4 nei temi non sei bravo a spiegare, no? Ok, diciamo nella narrazione, esatto, nella descrizione, ok, adesso mi è un po' più chiaro. Però magari non andava bene a scuola perché guardava le corse ciclistiche tutto il giorno e quindi non su credo, magari guardava le partite di pallone durante la scuola, non le corse di ciclismo di secondo sicuro. Me Michele Pelacci, potresti aver visto due Remco diversi all'arrivo in conferenza stampa, perché forse Remco non ce l'ha detto e ha un fratello in gara. Ah sì? Non so, se così fosse avremmo finalmente due fratelli che hanno vinto due tappe diverse nel Giro d'Italia. Perché un nostro ascoltatore ci ha dato la risposta a questa statistica. Ah, perché allora ricordiamo, ieri ci chiedevamo, dopo la fuga di Mattia Bais il giorno dopo la vittoria di Davide, se ci fossero mai stati due fratelli a vincere due tappe diverse in una stessa corsa a tappe. Nel giro del 1928 Alfredo Binda vinse sei tappe e lasciò vincere una tappa a suo fratello e gregario Albino Binda. Ah, ci ha scritto Carlo su Facebook, grazie Carlo di questa statistica, ma torniamo a noi. Sì, torniamo a noi perché, ecco, servirà forse nelle prossime settimane un altro Remco, come abbiamo detto, un Remco, terzo fratello. Terzo fratello. Quello è un record sicuramente imbattuto. Che dovrà in qualche modo prendere un po' di più l'iniziativa, abbiamo detto. Chi invece l'ha presa oggi, nel senso che ha dato una dimostrazione di forza importante, perché, ripeto, secondo me sono i veri vincitori di giornata, al di là di quello che dicono gli ordini d'arrivo, sono i due Ineos, o i due Inei, come si può anche dire usando il plurale, Geraint Thomas, che per 9 centesimi non ha vinto la tappa, e soprattutto, a mio modo di vedere, Theo Gegenhardt, che è arrivato terzo per 1:75. Cosa dire di questo cronometro dei due Ineos, Michele? Che sono andati forte in modo in parte inatteso, in parte molto atteso. Anche Tim Arensman, terzo loro compagno, è andato molto forte. E saranno due da attenzionare per tutto il giro, perché sono lì. Beh, da dire indubbiamente è che la Ineos ha preparato molto bene questo cronometro. Su questo non ci piove, anche se invece ha piovuto, e come su questo cronometro, poco, meno sugli Inei che sono partiti più tardi. E non ci stupisce che la Ineos faccia un gran lavoro tecnico di preparazione delle corse. Sono andati molto bene, è andato particolarmente bene Gegenhardt, non lo so, cioè, anche Geraint Thomas come è andato bene al di sopra delle sue aspettative, che una crono di questo livello Geraint Thomas era qualche anno che non la faceva. Sì, poi c'è sempre, cioè, è un risultato talmente balordo, con in senso positivo balordo, per me è un complimento come potete immaginare, e nello snocciolare la classifica, che cioè sono andati particolarmente bene, ma abbiamo anche dei favoriti che sono andati male sotto le aspettative, per cui è molto misto questo risultato. È anche duro a fare raffronti, per esempio con cronometro precedenti, è difficilissimo con quest'ordine d'arrivo davanti. Sì, beh, Thomas è arrivato, questo è il suo quarto secondo posto nella storia dei suoi Giri d'Italia, a cronometro è sempre andato forte. Ripeto, a me ha sorpreso di più il risultato di Gegenhardt, perché tra i due mi sembra quello che in salita possa fare di più la differenza. Non che Thomas non vada bene in salita, è l'ultimo Tour de France, è lì a dimostrarcelo. Però ecco, Theo l'ho visto più scattante, più pimpante, per quel poco che abbiamo visto finora in salita. E con tutta la salita che c'è da qui in avanti al giro, compresa la cronometro finale, che è una cronoscalata o semi-cronoscalata, tra i due mi sembra possa essere il favorito. Però potrebbe diventare a un certo punto per la Ines un problema avere due su questo livello così simili, perché sono andati praticamente alla stessa velocità oggi, con la stessa prestazione hanno fatto oggi. Chi sarà il capitano di questa squadra? A un certo punto dovranno deciderlo, lo deciderà chi per loro, la strada? Io non penso che possa diventare un problema, poi magari vengo smentito clamorosamente come qualsiasi volta faccio una previsione riguardante il ciclismo e anche il meteo, perché sono due corridori particolari, sono due corridori che sono, permettetemi il termine, sono poco capitani. Thomas sicuramente corre da capitano da qualche anno, però è uno che ha fatto il gregario, l'ultimo uomo, quello che vogliamo, per una vita al Tour de France per Froome. E Gegenhardt lo conosciamo, abbiamo visto che personaggio è, non è certo quello che, insomma, che sbatte i pugni sul tavolo verso i suoi compagni di squadra. Per cui secondo me sono veramente due persone, due figure ideali per avere un co-capitanato, come sta succedendo in questo momento alla Ineos. E poi hanno talmente tanti compagni di squadra in forma che potrebbero anche dividersi un paio di gregari a testa e correre due giri paralleli, perché nella classifica generale aggiornata abbiamo al 10° posto il terzo Ineo, che è Pavel Sivakov, al 13° Timen Arensman, al 14° Laurens Neste Plus e mi fermo, ma credo che troverei molto presto anche un altro se scorressi di più la lista. Sono tutti là, sono nei primi 15, ne hanno 5. Uno su 3 nei primi 15 è un Ineos in questo momento. Indubbiamente, poi se avete ascoltato l'episodio di ieri di questo podcast, è evidente anche da come è andata la cronometro che montano il bincio, perché per andare così forte è inevitabile, come ci hanno fatto notare tanti nostri ascoltatori, Stefano in particolare, sono evidentemente interconnessi i due bincio, perché hanno fatto lo stesso tempo, c'è giusto un secondo di, sarà il wifi, che un secondo di ritardo tra le connessioni dei due. Thomas però dovrebbe far lubrificare il suo, perché quando era sui rulli nel post-up faceva un rumore. Quando era sui rulli, penso sia ancora sui rulli, visto che è stato tipo un'ora e mezzo sui rulli nel post-up, cioè ci siamo andati via prima noi. L'abbiamo lasciato lì che faceva toc toc toc toc, preso in giro anche da Primož Roglič e niente, stavo guardando questa classifica che ha i due Inei separati di pochissimo al secondo e al terzo posto e poi i due classifica di tappa, giusto? Sì, di tappa e poi i due Groupama separati di pochissimo al quarto e al quinto e mi viene da pensare, uno, che a Remco gli manchi uno con cui andare in coppia, gli manca l'interconnesso evidentemente, e due, che è ora che il Giro ripristini la cronocoppie e che torni il trofeo Baracchi. E tre, se posso aggiungere, è ora che Stefan Kung vinca una corsa, perché mi dispiace, a lui ha detto dopo l'arrivo, questa è la storia della mia vita, perdo sempre e perdo sempre di poco, perché anche oggi ha perso, abbiamo detto, per tre secondi, forse anche sfavorito dal fatto di aver corso col percorso più... col percorso più bagnato. Cioè, ma non solo il percorso, anche con più pioggia. Se ne è presa di... cioè, io non ho dubbi sul fatto che a parità di condizioni questa crono l'avrebbe vinta Kung, perché ha perso di pochissimo correndo in condizioni ampiamente più sfavorevoli rispetto ai suoi avversari. Ganna ritirato, Evenepoel giornata così così, l'occasione giusta per lui, ha avuto un altro motivo per non vincere, un'altra occasione per vedere la sua faccia distrutta mentre era seduto sulla hot seat e qualcuno è arrivato a strappargli il primo posto. Speriamo che presto possa vincere una corsa, perché se la meriterebbe. Però torniamo agli uomini di classifica. C'è un corridore che è andato bene ma non benissimo, o forse addirittura malino, ed è Primož Roglič, che ha perso 16 secondi di Evenepoel, che non sono tantissimi per le aspettative che c'erano alla vigilia su questo cronometro, però è andato peggio dei due Ineos e forse questo un pochino non era scontato. Non era scontato, però era una crono totalmente piatta, una crono lunga. Secondo me anche lui deve essere contento di questo risultato. Lo tiene. Lui lo era, lui esatto. Era sorridente, l'abbiamo esatto. Visto che scherzava con Thomas. Tra l'altro l'amicizia Roglič-Thomas a me non mi immaginavo che potessero essere sodali in un certo senso, e amici di battute. Esatto, trovo che abbiano un simile senso dell'umorismo. Questo li accomuna un po' forse. Quindi è contento Roglič, perché sì, comunque sì. Adesso... comincia la parte decisiva del Giro con uno svantaggio che, a mio modo di vedere, è ampiamente recuperabile con tutto quello che c'è davanti e soprattutto con l'impressione che ci dà di essere forse il più forte in salita, impressione basata su una tappa, che è quella di ieri, però ha dato chiaramente l'impressione di essere il più forte, forse un po' meno forte a cronometro, è diventato più bravo in salita o, come dire, ha lavorato meglio per le salite piuttosto che per le cronometro. Può essere, è una buona interpretazione. Si sono difesi anche altri due uomini da classifica generale, come Vlasov e Almeida. Caruso è andato più forte degli standard, è stato sorprendente forse, e direi che tra i possibili vincitori o a podio del Giro d'Italia siamo qua. E allora, adesso è arrivato il momento di leggerla tutta la classifica generale, cioè tutta, non tutta. Sono quattro pagine. No, mi fermerò. Facciamo così, fai le prime due. Vai fino a Postelberger, 98esimo a 1:07:22. No, tempo con Gavazzi. Ah sì? Sì? No, mi fermerò molto prima. Comincio a dire che Remco Evenepoel e maglia rosa, 45 secondi su Thomas, 47 su Roglič, già detto, 50 su Gegenhardt. 1:07 su Joao Almeida e Andreas Leknessund, che resta ancora nella top 10 dopo la cronometro. E poi abbiamo al settimo posto Alexander Vlasov a 1:48. Ottavo Damiano Caruso a 2:13, nono Lennart Kemna a 2:37 e decimo Pavel Sivakov a 3 minuti. Poi tra gli altri ci sono Thibaut Pinot, 20° a 5:33, 21°, citiamolo anche oggi, Domenico Pozzovivo a 6 minuti e 23. come cambia il giro dopo questa... Ricitello 87esimo. Ricitello 87esimo. Mi dici Derek G invece a che posto è? Vediamo se ce l'ho nei... Derek G è il primo della seconda pagina. Può puntare alla colonna sinistra della classifica se guadagna una posizione. È 50esimo a 27.33. Ottimo giro. Diamo anche prima volta forse in questo 2023 il nome della maglia nera, che è Veljko Stojnic, a 2:01 della Corratec, giusto? Sì, serbo della Corratec. E allora sì, è arrivato il momento in cui cominciamo a seguire anche un po' quello che succede nelle parti basse della classifica. Rimaniamo invece su quelle alte, perché vorrei chiudere questa analisi sulla tappa di oggi con le prospettive. Come cambia adesso il giro con la classifica che abbiamo appena letto? Bella domanda. Cambia innanzitutto che adesso tutti vanno a farsi un bel giorno di riposo, e noi compresi, e al di là della gioia è qualcosa che c'è bisogno, secondo me, dopo questa cronobalorda. Fa capire anche che c'è già stanchezza nelle gambe, e conterà questa stanchezza, conterà tanto il riposo che riusciranno ad accumulare. Cambia perché è quello che dicevamo anche a caldo o a fresco, finita la tappa. Cambia perché lo scenario era un Remco Evenepoel che aveva distribuito castagne a tutti quanti nella prima settimana e poteva, non dico permettersi di giocare solo sulla difensiva, però aveva un vantaggio da difendere, e invece quel vantaggio ce l'ha, per carità, ma è molto più risicato, è molto più attaccabile. Ha alle spalle soprattutto un corridore come Roglic, che a me oggi non ha fatto una grande impressione, però può sorridere, come dicevamo, perché ha limitato i danni parecchio, e ha dalla sua una sparata che gli permetterà di guadagnare parecchio nei finali di tappa, per cui è un giro che Satana non voglia, però rischia di giocarsi sui secondi anche quest'anno. Oppure cambia perché ci sono tanti con le gambe. Questa cosa, forse ci sono più corridori con le gambe rispetto a quanto ci aspettassimo. Ci sono intanto tutti ancora i corridori che non hanno avuto nessun tipo di intoppo, al di là delle cadute di Evenepoel nel giorno del famoso giorno del cane. Sono ancora tutti lì, tutti sani, in buona salute, in buona forma. Non è una situazione che si verifica spesso in un grande giro, che dopo 9 giorni tutti i favoriti della vigilia siano lì senza intoppi, al loro massimo o quasi della forma prevista. Ci sono degli elementi che non conosciamo, per esempio se Remco Evenepoel ha programmato di andare in crescendo, quindi di avere una terza settimana in cui sta meglio che all'inizio del giro. Questo cambierebbe ovviamente tutte le previsioni possibili, e soprattutto non sappiamo ancora quale sarà la distribuzione dei ruoli nella Ineos Grenadier, se decideranno prima o poi di distribuirli questi ruoli. Sì, e c'è anche, cambia perché con la ottima prestazione di Caruso di oggi, segnalata da Michele, c'è anche la possibilità di vedere un podio Thomas Roglic Caruso, per dire che sarebbe, per restare in linea con il clima oggi, un magnifico gesto dell'ombrello a questi giovani che stanno dominando il ciclismo. Sì, è vero, sono... è una prospettiva che non è impossibile. Il giro si sta delineando verso l'alto, secondo me. Sta avendo un buonissimo livello. È un percorso che si addice bene a sorprese anche nella seconda settimana, per cui non vedo l'ora di vedere, no, che cominci già adesso, la seconda settimana. Sì, ci sono premesse per... Cioè, io il giorno di riposo lo voglio fare, Michele, perdonami, ma... Ci sono grandi premesse, si sta cucinando una seconda parte di giro, cucinando per usare un verbo che so non mi dispiace. Non siamo noi sui social. Ah sì? Ok. Si sta approntando una seconda parte di giro, secondo me molto spettacolare, e non possiamo che attendere con pazienza. È bello anche che si crei l'attesa per gli eventi che arriveranno, e sicuramente arriveranno, ma... Facciamo un salto al passato prima di guardare al futuro, perché questa mattina a Cesena, prima che i corridori del giro passassero per la loro prova a cronometro, ci siamo fermati, abbiamo fatto una sosta presso un luogo fantastico, possiamo dirlo. Incredibile. Siamo stati alla biblioteca malatestiana di Cesena e vi facciamo ascoltare un po' questa nostra avventura negli spazi bellissimi di questa biblioteca. Orsù Michele, aziona l'impianto frenante. Lo aziono tosto. Ciao, buongiorno. Buongiorno ragazzi, benvenuti alla biblioteca malatestiana, è un piacere. Chi sei? Io sono... Noi ci diamo subito del tu. Mi chiamo grazie. Paolo, sono il direttore scientifico della biblioteca malatestiana, ed è un piacere avere in biblioteca un team del Giro d'Italia. E allora guidaci in questo posto magico e meraviglioso. Con immenso piacere. Stiamo entrando in quello che è il tesoro della città, tutti quanti gli effetti. Due chiavi per entrare, il gioco delle due chiavi è molto interessante perché appunto... Scusami, due chiavi che sono praticamente degli apribottiglie. Molto comode e singolari perché appunto l'una senza l'altra non permette di aprire quella che è una serratura e quattrocentesca perfettamente conservata. Dopo l'idea dell'apertura di uno scrigno a tutti quanti gli effetti. Ok, ecco. Allora apriamo adesso. Apriamo, proviamo a vederla tutti insieme. Ecco qua. E si apre come un tempio laico della cultura a tutti quanti gli effetti. Questa pianta basilicale con una volta botte centrale e ai lati una serie di volte a crociere dove ci sono appunto i plutei che riportano ancora legati e con catena 343 manoscritti. E se guardate un pochettino la curiosità, è una catena cinquecentesca detta ghianda. E appunto un sistema non tanto per preservare il furto dei libri, quanto per mantenerne l'ordine. Quindi non la stiamo consigliando per chi deve parcheggiare la bicicletta per non farsela rubare, no, la catena ghianda non è comoda, la catena ghianda, però è lunga, quindi se ne possono legare più di una se doveste trovare il sistema più adatto per farlo. Una perfetta armonia tra quella che è l'architettura e il patrimonio conservato. Quindi è nell'unitarietà che questa biblioteca va letta e va visitata, ammirata e soprattutto goduta. Ogni manoscritto è prezioso. Ce ne sono alcuni come le vite di Plutarco, come i manoscritti giuridici, come il De Civitate Dei di Sant'Agostino o il commento sul Vangelo di Giovanni, sempre di Sant'Agostino. Sono pezzi eccezionali perché vi hanno lavorato artisti eccezionali e quindi l'hanno arricchito con miniature. E poi, se mi permettete, il vantaggio di questa biblioteca, nata nella seconda metà del 400, a ridosso di un evento eccezionale, quale è stato appunto l'arrivo della stampa. E quindi si passa da una biblioteca del tardo umanesimo, dove il manoscritto è ancora centrale nella trasmissione della cultura, e improvvisamente con l'arrivo della stampa tutto si blocca. E quindi questo luogo quasi si musealizza. Si passa da una biblioteca a quello che è quasi un museo. E la città lo fa proprio. Senti, questi volumi sono qui incatenati, la biblioteca li ha scatenati. Studiati, scatenati, riportati. Sì, allora, sono, possiamo dirlo, una biblioteca scatenata, nel senso che sono tutti accessibili, ovviamente online, abbiamo fatto una riproduzione digitale, sono sfogliabili online, ma allo stesso tempo sono consultabili da studiosi, cioè è molto, non è un fondo morto questo, non è una biblioteca museo statica, è una biblioteca museo dinamica. Entrando qua dentro ho visto un elefante. Sì. E mi sono chiesto, ho letto che è il simbolo di Malatesta, no? Sì. E la scritta è in latino Elephas Indus Culices Non Timet. Io ho fatto latino ormai 7 anni fa, l'ultima volta. E io, poi... io più di 20. Ecco. Però vuol dire elefante indiano non teme le zanzare. L'elefante indiano non teme le zanzare penso sia un paradosso meraviglioso, un gigante che schiaccia la zanzara. Ecco, e possiamo dirlo, il vincitore di tappa di oggi del Giro è l'elefante che ha schiacciato tutte le zanzare che sono rimaste dietro. Dopo quelle sciocchezze le tagliamo. Sì. Ma no, non teniamo le sciocchezze. Ecco. Stiamo scatenando? Sono manoscritti scatenabili e scatenati sotto tutti quanti gli effetti. Adesso vi stupirete, è la manutenzione che richiedono questi beni. I manoscritti vengono cullati e curati come se fossero bambini sempre alla prima nascita. Ecco, questo perché hanno bisogno di essere spolverati, hanno bisogno di essere curati, hanno bisogno di essere aperti comunque vada. Quante persone lavorano? Questi sono, mi ricordano un po' i massaggiatori nel ciclismo quando si prendono sì. cura del ecco, corpo io dei ho corridori. Un collega si chiama Ivan, è un tesoro di persona. Ecco, questa è la persona che ogni giorno culla i nostri manoscritti. Scusa Paolo, ma nel nostro podcast, al di là della cultura, noi ci occupiamo anche di ciclismo a volte e di cibo. Abbiamo dei riferimenti in questa biblioteca? Alla piadina, cioè la prima volta che si è parlato o scritto di piadina è qua? O... Allora, abbiamo un ricco fondo di manoscritti più moderni, che non sono appunto questi malatestiani, in cui tanti cronisti e tante persone legate alla vita della città, quindi parliamo dal 600 fino ai giorni nostri, hanno notato elementi legati all'arte culinaria. bisogna stare molto attenti. Sapete che il tema piadina in Romagna è scottante e soprattutto delicatissimo. Nessuno ha la ricetta perfetta, si dice, nessuno è l'autore all'imprinting della piadina, perché da Rimini a Ravenna, da Cesena fino a Forlì, ecco, cambia di spessore, cambia di ricetta, cambia di sistema. Ed è ovvio, quella di Cesena penso sia la migliore. Va bene, allora direi che adesso andiamo ad assaggiarla una piadina insieme, tutti quanti, o no? Silvia, non riusciamo a trovare una piadineria aperta oggi a Cesena? In realtà no, perché purtroppo le piadinerie sono sempre spazi dove si mangia all'aperto, molto conviviali, e oggi ancora sta piovendo, quindi vediamo se migliora il tempo, magari poi più tardi si riesce. Ma intanto tra poco passano i corridori, qualcuno sta già facendo la ricognizione. Ci dicevi che sul percorso hanno fatto un lavoro speciale sulle pietre, giusto? Assolutamente, sono stati bravissimi, perché onde evitare scivolamenti e cadute, visto anche il maltempo previsto, e hanno cercato di rendere con un grip migliore le pietre che sono di fronte all'uomo. Adesso ci appropinquiamo verso l'arrivo e speriamo che vada tutto bene e speriamo di trovare una piadineria aperta da qualche parte. Sono certa, troverete piadina di varie tipologie e tipica di Cesena. Va bene, grazie. A voi. Sì, non abbiamo trovato le piadine per ora, però fortunatamente abbiamo trovato una ricca mensa aziendale qui, che sarebbe stata tutta ottima se non fosse che non c'erano alcolici, che è una cosa abbastanza esecrabile. Pensa chi deve lavorare qua, che non può mai bersi una birretta, se le deve portare da casa. Comunque, lasciamo perdere, la biblioteca è stato un posto da pelle, per quanto mi riguarda, da pelle d'oca. Mi sono veramente emozionato a entrare lì dentro e sono stracontento di essere riusciti a vedere questo posto, cosa per la quale dobbiamo ringraziare tantissimo Silvia Livoni. Avete sentito la sua voce, che è il nostro angelo custode quando si arriva in Romagna, e anche quest'oggi ci ha accolto e ci ha guidato, e ci ha fatto conoscere Paolo Zanfini, il direttore scientifico della biblioteca, la cui voce ci ha guidato. Fuori dalla registrazione abbiamo scoperto un'altra cosa, che uno dei volumi, dei tanti meravigliosi volumi custoditi nella biblioteca malatestiana, pubblicato nel 1587, si chiama De Gelidi Potus Abusu, che biasima il consumo esagerato di gelato nelle ricche famiglie aristocratiche di Cesena durante l'estate. Non stiamo inventando nulla. Per quanto ricche, i gelati comunque sono buoni, ma ci costano milioni, per cui anche le famiglie aristocratiche erano messe in crisi. In crisi per via del gelato, e quindi noi abbiamo colto la palla al balzo, come si dice in questi casi, per andare a parlare dopo l'arrivo con due corridori che sappiamo essere legati al mondo del gelato per due motivi diversi. Uno, perché li produce, oltre a consumarli, immagino, ed è François Bidard della Cofidis, e l'altro è Larry Warbus, che è un grande goloso di gelato. Però andiamo con ordine e ascoltiamo questa piccola, breve chiacchierata con François Bidard, 31enne della Cofidis, che insieme alla sua famiglia produce anche del gelato. Prefer English or French? French. Okay, let's try. My French is not very good, but we will try. Okay. François Bidard, comment ça va? Ça va bien. C'est ton sixième Giro. Qu'est-ce que tu aimes de le Giro et de l'Italie en général? J'aime bien l'Italie. Il y a une ferveur particulière sur le Giro. Avec les... c'est un grand tour spécial, c'est un tour de cœur. Hein. Et voilà, j'aime bien le Giro. Il y a la bonne patte en plus. E allora, perdonerete innanzitutto il mio francese abbastanza scolastico, ma gli ho chiesto come va François, e lui ha risposto semplicemente va bene. Gli ho detto: il tuo sesto Giro, cosa ti piace del Giro e dell'Italia in generale? E lui ha risposto: amo molto l'Italia, c'è un fervore particolare qui, e il Giro è il grande Giro più speciale, il Grand Tour più speciale, è il grande Giro del cuore, in un certo senso. Lo amo molto, e amo anche molto la buona pasta. E a quel punto, però, dopo questa introduzione, insomma, di rito, gli ho chiesto se è vero che, come abbiamo letto, la fattoria della sua famiglia in Normandia, oltre a produrre latte, viene prodotto anche del gelato. C'est vrai, c'est l'exploitation familiale, il y a des vaches, et avec une partie du lait, on fait des glaces, et on fait tout glace, sorbet, tout genre de parfum, vanille, chocolat, caramel. Quel è il tuo preferito? Ah, caramel beurre salé. As-tu essayé des glaces ici en Italie dans ce Giro? Non, pas encore, mais j'aimerais bien essayer la glace à la Fior di Latte. Et quoi de plus fatigant, travailler dans une ferme ou prendre l'échappée au Giro? Je pense que hier c'était fatigant. Merci beaucoup. Merci. E lui risponde: è vero, abbiamo delle mucche, con una parte del latte facciamo dei gelati, anche dei sorbetti, di tutti i tipi e gusti, vaniglia, cioccolato, caramello. Ho chiesto, sì, qual è il tuo preferito? E lui ha risposto: caramello salato, è il suo gusto preferito. E ovviamente gli ho chiesto: hai già assaggiato del gelato durante questo Giro d'Italia? E dice: no, non ho ancora, però mi piacerebbe provare il fior di latte. E infine gli ho chiesto: è più difficile lavorare in una fattoria o entrare in una fuga al Giro? E lui, molto laconicamente, ha risposto: posso dire che ieri, perché lui era in fuga ieri nella tappa di Fossombrone, è stato molto faticoso. Quindi ha dato la sua risposta in questo modo. Quindi, rimanendo, tenendoci, come dire, il desiderio di provare i sorbetti e gelati della Ferme Bidart, o qualsiasi altro sorbetto gelato ci passi sotto il naso. Sì, ho parlato poco dopo anche con Larry Warbus, americano della Age Dessert Citroën, che già tempo addietro avevamo intervistato su questo tema. Gli ho voluto chiedere come procede la sua passione per il gelato. Come stai, Larry? Ah, bene, bene. Quindi tu parli italiano adesso, possiamo dire, è ufficiale? Parlo un po', ma perché ho vissuto in Toscana per un anno, ma più che 10 anni fa, così parlo un po' meno ora, ma sì. Questo è il tuo quinto Giro d'Italia, giusto? Adesso sì. Conosci l'Italia molto bene, quali sono i tuoi posti preferiti? I miei posti? Sì, luoghi. C'è molte. abito in Nizza ora e mi piace andare in Italia per l'allenamento e anche per la vacanza. Mi piace Cinque Terre, anche mi piace Alba, il vino, tutto nella regione Langhe. E anche a Toscana, Firenze, Lucca, perché ho passato molto tempo là. Sappiamo anche che tu sei un grande amante del gelato. Hai mangiato un gelato in questo giro finora? No, ma questa mattina ho visto per domani, il giorno di riposo, ma penso che 3 chilometri, 4 chilometri... penso che non è facile possibile nella bicicletta, ma non lo so. Quindi vuoi prendere la bicicletta per andare a mangiare un gelato domani? È possibile. Qual è il tuo gusto preferito? Cookies, Kinder e cremino. Sì, ok, mi piace cremino. Sai che a Cesena c'è una biblioteca molto importante. Uno di questi libri è sul gelato. E le persone di Cesena mangiavano troppo gelato d'estate. Ti ricordi una volta in cui hai mangiato troppo gelato nella tua vita e poi stavi male? Sì, molte volte quando siamo giovani con la squadra nazionale, penso che tutte le volte prendiamo 3 gusti, ma dopo fa troppo bene. E dopo ancora 2 o 3 gusti, è possibile 1 o 2 volte, un terzo, due o tre gusti. Sì. Quando eri in Italia questo succedeva? In Lucca. Sì. Ultima domanda. Sappiamo che tu sei ospite spesso dei nostri amici del Cycling Podcast, sì, Daniel. Sì. Ti piace parlare? Pensi che possa essere qualcosa che amerai fare nel futuro? Sì, mi piace molto fare tutte le cose avec la podcast. E è possibile nel futuro, penso che sì, è possibile fare uno io. penso che mi piace, ma non lo so, nel futuro. Per adesso c'è un giro da finire. Sì, sì, sì, e dei gelati a mangiare. Soprattutto, grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, Larry Warbus preferisce, i suoi gusti preferiti sono cookies, Kinder e cremino, come abbiamo sentito. I vostri, visto che stiamo parlando di questo? Ma cookie di alluminio. Ah, no. Mi sembrava strano, cioè non piace. Poi spesso si usa per avvolgere il gelato, per cui magari lui se lo mangia, cioè non ha ancora gusto capito alluminio. Che non so. Stomaco di ferro questo di questo Larry. No, Michele, il tuo gusto preferito? Io, essendo intollerante al lattosio, ho una ristretta gamma di gusti di cui scegliere. Generalmente non le creme. Fondente e frutta sono i miei preferiti. Diciamo fondente e fragola è una mia scelta ricorrente. Ok, procediamo. E io dall'infanzia ho questa mia malattia per il gelato al pistacchio. Lo so, anch'io. E continuo a portarmela dietro, ma poi mi piace molto variare. Avevo una gelateria al mare che frequentavo tutte le notti e lì mi ha fatto provare anche tanti esperimenti di gelato e mi piace variare. Cioè, poi prendo sempre il pistacchio. Dico che mi piace variare, non è vero, prendo sempre il pistacchio. Anche il gelato allo yogurt a me piace molto. Ah, no, io pistacchio. Proprio di risposta qui molto semplice per me. Ma c'è stata anche un'altra intervista oggi a tema diverso. Un altro fuggitivo di ieri. Fuggitivi di ieri li abbiamo praticamente quasi coperti tutti in questo Giro d'Italia. Si tratta di Samuele Battistella, corridore della Astana, e vi facciamo sentire cosa ci ha detto. Samuele Battistella, della Astana, Kazakhstan, soprannome Samu o Batti, dipende. Senti, come va questo inizio di giro, come vanno le gambe, come questa corsa che il clima non è stato certo dei più clementi, per cui è stato un inizio già bello impegnativo. No, beh, sicuramente non è stato facile la prima settimana, ma sto cercando di salvare più energie possibile perché c'è ancora molto tempo per arrivare a Roma. Ci sono ancora molte tappe dure e aspettando il momento giusto e il giorno giusto per far bene, per essere in fuga o comunque cercare di vincere dal gruppo, ma penso che la pazienza sia la chiave per fare un buon risultato qui in qualche tappa. Io non ti ho ancora visto senza casco a questo giro, i capelli sono tornati del colore abituale. Sì, sono ritornati neri, sono ritornati scuri. Potevo farli rosa, ma non sarebbe stato... Magari se c'è l'occasione. Sì, ma poi la squadra mi licenziava se mi presentavo con i capelli rosa. Perché i capelli biondi di quest'inverno da dove arrivavano? Arrivavano perché avevamo la maglia bianca alla Vuelta e allora ho deciso di fare tutta una colorazione unica, ho fatto capello bianco e maglia bianca. Ti piace giocare con i tuoi capelli? Sì, comunque. Sì, dai, anche perché era un po' di anni che volevo farlo, è stata una scusa praticamente. Tu sei un corridore ancora giovane, molto giovane, ti stai ancora scoprendo, il Giro d'Italia può essere anche un modo per capire... chi sei, vabbè, dove sei, dove puoi andare. Diciamo che ho capito il corridore che sono. Sono un po' un corridore che va bene un po' dappertutto, ma non vince mai da nessuna parte. Quindi vado bene un po' in salita, un po' in volata, un po' in pianura. E diciamo che le tappe o le gare che mi si addicono a me sono quelle dure, ma non con salite lunghe. In carriera hai vinto molto in Veneto, no? Hai vinto il Giro del Belvedere, l'Under, hai vinto l'Evento Classic, che è tuttora la tua unica da professionista. Fuori dal Veneto, dove sogni di vincere? In Belgio, alle classiche del nord, magari una Liegi o una Freccia o comunque anche in Olanda, un Amstel. Comunque quelle sono le gare che sogno di vincere. La Freccia già quest'anno ti sei fatto vedere in qualche modo, no? Tu invece in queste occasioni cerchi di sbirciare un po' i grandi campioni che ti trovi di fianco per rubargli qualche segreto? Ma il loro segreto principale è che hanno talmente tanta forza che non hanno segreti, cioè loro possono giocare con noi, possono, anche se bucano, forano, cadono, comunque hanno così tanta gamba che rientrano e quindi penso che per un corridore come me, che oggettivamente sotto il loro livello non ho moltissimo da imparare perché loro hanno proprio una potenza e una forza diversa. Un grande campione ce l'hai come compagno di stanza perché sei con Cav a questo giro, com'è, sì, esatto. La convivenza, come coinquilino. Lui è molto bravo come corridore, come persona, quindi mi sto trovando veramente bene. Chi è più ordinato? Lui. Chi è che va a letto prima? Io. Chi è che sceglie la musica? Lui, vabbè, ovviamente. Ovviamente, addirittura ovviamente, per anzianità dici, sì. O perché ha dei gusti no, musicali? No, perché anche per anzianità, okay. Nonnismo. Invece per passare il tempo quando non corri in bicicletta vai a dare una mano all'azienda di famiglia di Bravo. Davi, adesso sempre me. Macchine da stiro è il termine corretto in italiano. Sì, sì, sì. Esatto, macchine da stiro. Qualsiasi tipo, piccoli, grandi, se vi serve basta che mi contattate, ve lo mando a casa. Hai portato il ferro da stiro al Giro d'Italia? No, è troppo, troppo grande, però... Perché poi, cioè, per il look del ciclista il ferro da stiro non serve. No, è inutile. Una fregatura. Abbiamo tutto, tutte cose sintetiche che non servono essere stirate, quindi non serve. Però tu sei uno stiratore provetto comunque. No, beh, sì, ovviamente so come fare, ma non sono sicuramente come mia mamma. La camicia però la sai fare, è precisa. Sì, so farla, però non so fare la linea di piegatura delle maniche. Lì si chiede sempre consiglio a tua mamma. Esatto. E al Giro d'Italia che altri consigli si chiedono alla mamma? E su cosa mangiare, perché ho sempre mal di gambe, cioè robe così. Cosa ha risposto? Ha detto mangia più che puoi e basta pasta in bianco. Grazie mille Samuele, grazie, buona giornata. Ciao, grazie. E allora salutiamo la mamma di Samuele Battistella, salutiamo le mamme di tutti i fuggitivi di ieri, che le abbiamo già citate anche nella puntata di ieri, salutiamo tutte le mamme del Giro d'Italia e anche le nostre, anche le perché oggi è la festa della mamma. Certo, certo, certo. Per cui siamo riusciti anche a fare questo momento mainstream e citare la festa della mamma a Gironimo, chi l'avrebbe mai detto? Invece, cioè sarà successa altre volte al Giro d'Italia questa cosa. E succede tutti gli anni. Succede tutti gli anni. Il Giro d'Italia è contraddistinto da... da corsa ciclistica sulle strade d'Italia, festa Eurovision della mamma e finalmente Eurofestival, che ieri non l'abbiamo citato ma ieri sera l'abbiamo guardato. Certo che l'abbiamo guardato. Michele vuole dire qualcosa sul nostro... Sì, perché per colpa di Leonardo, con cui condividevo la stanza ieri sera, ho visto i miei primi tre minuti di Eurofestival. No, ne hai visti molti di più di tre, tutta la fase del voto l'abbiamo vista dall'inizio alla fine. Diciamo che io guardavo con poca attenzione e ignaro di cosa stesse accadendo. Ogni tanto chiedevo: ma stiamo andando bene? Stiamo vincendo? Lui diceva: abbastanza. Stiamo vincendo. No, perché il meccanismo di voto dell'Eurovision Song Contest è complicato. Spiegarlo quasi... Non lo faremo adesso. No, adesso no. Spiegarlo a chi non lo conosce. Come spiegare il meccanismo della classifica di un grande giro del ciclismo a una persona che non conosce il ciclismo e dice no, perché uno che vince 5 tappe non è primo nella classifica generale? Spiegarlo non è semplice. Io anni che seguo il ciclismo non ho ancora capito perché. Cioè, fortunatamente nessuno ha vinto 5 tappe, chi ne ha vinte 2 è Remco, che infatti è in testa alla classifica generale. In questo quindi caso corrispondono. Credo che funzioni così. Comunque, finita la festa della mamma tra poco, finito l'Eurofestival, da domani cosa facciamo? Cosa facciamo? Non lo so, lo dobbiamo chiedere a qualcuno. Chiediamolo agli astri. Le stelle si raccontano. L'oroscopo di domani dal genius di Asterio Trefortuna. Per il giro, per la tappa, per la vita. Ariete. L'inverno è finito. Sta arrivando l'estate, amico Ariete. Dobbiamo andare avanti. Toro. Il Commodore 64 non è più in commercio. Ho controllato un coppa internet. Non c'è più in commercio. Hai capito, Toro, che dobbiamo fare? Gemelli. Amico Gemelli, le stelle stanno cercandoti. Vogliono vederti. Tu ti nascondi. Cancro. Amici del cancro, domani nella gara dovete fare come dico io. Quando vedete una bandiera verde con sotto un signore con gli occhiali, è lì che dovete attaccare. Leone. Qua stiamo ancora aspettando un ruggito. Hai capito? Un ruggito così. Ah, un ruggito. Ruggito. Vergine. Pasquale è un fetente. Non lo devi ascoltare, ma soprattutto domani. Bilancia. Amico della bilancia, ma tra tutti i corsi che offriva la palestra sotto casa tua, proprio Zumba dovevi fare. Scorpione. Nella giornata di domani, quando esci dal supermercato, si avvicinerà un signore che capelli tutti untuosi. Tu non fai finta di non vederlo, vai dritto, porta rogne, non fare il testardo. Sagittario. Oggi temporale, Sagittario. Il cielo è coperto, Sagittario. Venti intensi. Ci siamo capiti, Sagittario. Capricorno. Ma adesso non vi lamentate, amici del Capricorno. Nel pesto ci vanno i pinoli. Che è sta cosa che ci mettete le mandorle, Capricorno? Acquario. Ce la cambiamo o non ce la cambiamo questa bicicletta vecchia senza cambio, che pure i freni non funzionano bene? Acquario. Pesci. Pesci, non so più in che lingua devo dirtelo. Le liste a te ti fanno male. Non fare più liste, basta! Le stelle consigliano. Bevi un tè, pensa a me e incontra te. Sì! Mamma mia, che finale poetico! Sì, vabbè. Non so se, insomma. Ma forse era una lettura dello stesso poeta che ha scritto il libro sui cani. Sui cani che inseguono il giro, può darsi. C'è un legame tra... cioè, per, interconnessione. Per far capire che è un cialtrone questo Asterio Tre Fortune. Io non uso mezze parole. Cioè, ha dato delle indicazioni per la gara di domani. Domani c'è il giorno di riposo. Ma chissà che gara, però la vita è piena di gare. Tra l'altro era cancro, io domani dovrei attaccare quando vedo un signore con gli occhiali. Forse era attaccare il signore. Ma va bene, va bene. Mi spiace che continui a mancare questo ruggito, vedremo di rimediarli. Dobbiamo andare a cercare un ciclista nato sotto il segno del leone e farlo ruggire. Faremo anche questa ricerca, ma è il momento di... ti vedo attivo, vuoi dire qualcosa, Michele? No. Allora te la chiedo io una cosa, visto che sei abbastanza silenzioso quest'oggi. Pronostico cambiato rispetto alla vigilia o no? Chi vince il Giro d'Italia, detto adesso, dopo 9 tappe? Remco Evenepoel. Ah, conferma il suo, come dire, preferito, favorito di questo giro, Filippo. Ma a me che me frega, domani c'è il giorno di riposo, domani vinciamo noi. Era il momento più atteso di questo Giro d'Italia. La giornata orizzontale. Piattone, domani, tappa di domani, un piattone. Però possiamo già dire, senza chiedere alle stelle, che domani avremo comunque un episodio di Geronimo, nonostante la giornata di riposo. Facciamo così, questo sì, teaser. Teaser per una puntata speciale di domani. E... Ci sarà una puntata anche domani, fuori gara, inevitabilmente, visto che la gara domani non c'è, a parte... la gara che sta seguendo Asterio Tre Fortune, ma per il resto la gara non c'è e noi ce la prendiamo comoda. Noi ce la prendiamo comoda, riparleremo di quello che è successo oggi. A mio modo di vedere, la tappa più bella del giro, non l'avrei mai detto. Addirittura. La tappa di oggi è stata la più bella del giro, non l'avrei più detto. Di Campo Imperatore. Più di Campo Imperatore non era difficile. Però sì, a sorpresa mi sono molto divertito nel cronometro di oggi. Sì, ammetto che anche a me il cronometro non entusiasmano di solito. Oggi mi sono entusiasmato con tutti questi arrivi, no? Ogni 3 minuti, oddio, questo è molto vicino, cosa fa, cosa combina, va davanti o meno. È stato bello. È stato molto bello, sarà bello anche quello che ci aspetta a breve. Prima la cena. Il viaggio, la cena, il sonno. Però... Tutto. Lavarsi i denti anche, ricordami. Mi raccomando, prima, ragazzi, è importante. Prima ancora di tutto questo viene una piccola chiacchierata che abbiamo fatto qui a Cesena con Paolo Cessisoglu, l'avete sentito in apertura, lo sentiamo in chiusura, ci racconta com'è nata la sua passione per il ciclismo. Con Paolo Cessisoglu vi salutiamo, salutiamo i nostri amici e compagni di viaggio di Shimano che oggi non abbiamo incrociato perché erano impegnatissimi nella cronometro. Noi abbiamo una chat in cui ci sono anche tutti gli autisti e tutti i meccanici di Shimano. Oggi c'erano 2000 messaggi che si davano i tempi. Parti con Puccio alle 13.04, tutto così. Siamo stati in gara in qualche modo anche seguendo questa chat quest'oggi. Li salutiamo, li risentiremo nei prossimi giorni. Risentiremo anche voi nei prossimi giorni. Vorrei ringraziare anche Emanuele, nostro amico di Cesena, che abbiamo incontrato all'arrivo. Ci ha portato qualche maglietta della Resistente Cicloturistica, che è un percorso permanente qui a Cesena che collega tutti i luoghi della Resistenza nel Cesenate, e ci ha fatto piacere ricevere la sua maglietta, una bella iniziativa. Seguiteli laresistente.it. Come noi, anche voi che ci ascoltate, domani riposatevi. Ciao. Ciao, buon riposo. Paolo, sappiamo della tua passione per il ciclismo, però voglio chiederti com'è nata, da quando sei appassionato di ciclismo? Sono appassionato di ciclismo più o meno da una quindicina d'anni. Ero in Versilia con degli amici, tutti toscani, quindi no, sai, tutti biciclettari toscani, con tutte le loro collinette, e volevano farmi schiattare su una salita perché io non ero un ciclista. E quindi siamo partiti per questo giro, loro erano tutti bardati, no? Vestiti perfetti, precisi, io invece con una bici da sgangherata, col costume da bagno. però in cima alla salita sono arrivato praticamente per primo e li ho lasciati tutti indietro e ho detto, ma secondo me ho trovato il mio sport, e da lì è iniziato. Quindi sei uno scalatore? Però sicuramente mi cerco sempre la salita, la pianura mi annoia. Tra i ciclisti del Giro chi ti assomiglia di più o per chi fai il tifo? Grazie a Dio non mi assomiglia a nessuno, se no non sarebbero dei professionisti. Mi piacciono molto i ciclisti istintivi che danno spettacolo. Sicuramente la mancanza di Vincenzo si sente quest'anno, di Nibali, però vedo che ci sono Filippo mi piace molto, anche un regolare, mi spiace si sia ritirato, però credo che sia un giro che ha molti talenti interessanti, quindi insomma è divertente. Un pronostico, insomma, questa battaglia, questo duello tra Remco e Evenepoel e Primoz Roglic, tu chi vedi favorito e chi ti piacerebbe che vincesse poi il giro? Non darei per scontato che Roglic non sia in grado di portare il giro a termine davanti, perché è molto molto pericoloso. Grazie mille e buon divertimento qui con la cronometro di oggi. Grazie a voi.